30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Nel 2011 sono state 28.000 le persone arrivate in Italia in fuga dalla Libia in fiamme, anche se in gran parte non si è trattato di libici, ma di cittadini provenienti da altri paesi africani. Altrettante sono state quelle arrivate dalla Tunisia dopo la caduta di Ben Ali, un incremento nel normale flusso migratorio che ha avuto come effetto anche un'impennata nelle domande di asilo. Buonasera cari ascoltatori di Radio 24, di 30 minuti in cronaca. Questa sera dunque parliamo di migrazioni tra miti e realtà. Per molto tempo, anzi forse è così da sempre, i grandi temi migratori si prestano a essere interpretati, letti, addirittura usati, strumentalizzati dalla politica. Quello che è accaduto negli ultimi anni in fondo non è un'eccezione, e ne parliamo con chi ha appena pubblicato uno studio che ha un titolo molto preciso, è un interrogativo. Fuori controllo è l'interrogativo che si pone il professor Asher Colombo, che insegna sociologia generale e sociologia della devianza nell'Università di Bologna. Asher Colombo è con noi questa sera, grazie innanzitutto e benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Allora, le migrazioni tra miti e realtà, questo è il titolo del lavoro che lei ha appena pubblicato per Il Mulino. Perché miti e realtà? Allora, le chiederei di cominciare proprio dai miti, per il racconto di quelle parti che appunto sfuggono, che diventano realtà perché raccontate. Ma dunque, il ruolo dell'immigrazione in Italia e soprattutto delle politiche migratorie è un tema che nel nostro paese è stato molto ideologizzato. Io in questo senso parlo di miti, ce ne sarebbero molti. Un mito, per esempio, è che nelle politiche migratorie italiane la destra è stata, diciamo, repressiva e crudele, e che invece la sinistra è stata, diciamo, più lassista e buonista. I dati a nostra disposizione oggi ci dicono che le cose non sono così semplici. Un altro mito duro a morire è quello che l'Italia sarebbe un paese incontrollabile dal punto di vista delle frontiere, e di volta in volta gli sbarchi, come quelli che lei ha citato, quelli che sono arrivati in Italia a seguito delle rivolte nel Nord Africa soprattutto, no, danno l'impressione che l'Italia sia un paese particolarmente vulnerabile, esposto dal punto di vista delle frontiere esterne. Ecco, questo è proprio un grande classico. L'Italia ha migliaia di chilometri di costa, dunque è un luogo dove appunto si passa più o meno liberamente, anche magari a costo di rischiare la pelle, ma che comunque si può entrare. Ecco, questo è un luogo comune, un mito che senz'altro va sfatato. L'Italia ha una quota di stranieri irregolari, cioè privi di permesso di soggiorno, di dimensioni non ben note ma variamente stimate, ma noi sappiamo che in realtà questi stranieri irregolari, solo una piccola parte di questi stranieri irregolari è entrata, diciamo così, in violazione o eludendo i controlli alle frontiere. Naturalmente questi, quando avvengono e hanno caratteristiche più o meno di massa, diciamo così, fanno molto notizia e quindi colpiscono molto l'opinione pubblica e la stampa. Ecco, si radicano naturalmente la stampa, non volevo tagliare questo passaggio al contrario, ma per dare un'idea di che quota stiamo parlando, quando lei dice è una quota percentuale appunto che è lontana dal mito, quindi quanti sono percentualmente gli ingressi clandestini? Ma gli ingressi clandestini sono difficili naturalmente da valutare, ma se noi prendiamo il caso degli sbarchi che avvengono irregolarmente, che sono quelli su cui, diciamo, più si punta l'opinione pubblica, negli ultimi anni i vari governi, insomma, che si erano occupati di affrontare questo problema avevano fortemente ridotto il numero di sbarchi, tanto che in Italia si erano quasi azzerati. Di fatto però gli sbarchi irregolari hanno un andamento molto difficile, diciamo così, da tenere sotto controllo, perché dipendono da fattori sostanzialmente esterni alle possibilità di controllo sulla base delle politiche, come è stato appunto nell'ultimo caso. Però teniamo presente che, per esempio, in Italia sono arrivati dal Nord Africa circa 50.000 stranieri irregolari, una parte dalla Tunisia, una parte dalla Libia, ma altri paesi hanno sostenuto, diciamo, pesi molto maggiori, anzi quasi tutti i paesi hanno sostenuto pesi molto maggiori delle uscite, delle evacuazioni dalla frontiera libica verso gli altri paesi. Penso all'Egitto, alla Tunisia, che hanno avuto, diciamo, ingressi superiori a 300, 400, mezzo milione, quindi cifre notevoli. Però anche in questo caso in Italia, quando erano cominciati gli sbarchi all'inizio di febbraio, si diceva mezzo milione, un milione e mezzo, anche, dicevano anche alcuni esperti, cioè poi si è trattato di 50.000, cioè una quota senz'altro cospicua, ma insomma molto lontano dalle, appunto, da queste cifre che venivano sbandierate. Come mai questi numeri si amplificano in questa maniera? Com'è possibile passare da 50.000 a oltre un milione? Di fatto, quando poi appunto aggiunge anche gli esperti, cosa c'è? Intenzione? È proprio una questione, diciamo, di strabismo di cui non vogliamo renderci conto bene, perché l'Italia è un paese che ha una presenza irregolare, ma questa presenza irregolare non è fatta da stranieri che entrano in violazione delle norme dell'ingresso e eludendo i controlli di frontiera, ma è fatta da altre due componenti sostanzialmente, che sono: una, gli stranieri che entrano regolarmente con un visto turistico e che si fermano dopo la scadenza di questo visto, no? Dopo la scadenza. Quindi scade il visto e loro rimangono. Esatto, quelli che nella letteratura anglosassone vengono chiamati gli overstayers, cioè coloro che rimangono più di quanto non sarebbe ammesso. E ultimamente, anche se questo fenomeno non è stato ancora ben quantificato, gli stranieri che hanno visto scadere il proprio permesso di soggiorno, e quindi non il visto ma il permesso di soggiorno, perché hanno perso il lavoro e non sono riusciti a trovarlo prima della scadenza del permesso. Il rinnovo di un permesso per motivi di lavoro, di ricerca di lavoro, adesso è di 6 mesi, ultimamente è stato lo stesso ministro ha proposto di portarlo a 1 anno, come di fatto era una volta, appunto per evitare queste cadute nell'irregolarità che l'Italia fra l'altro finora non aveva mai avuto, cioè finora intendo anche nel periodo in cui c'era al governo il centrodestra. Queste sono le due componenti principali, però siccome, come dire, sono meno, da un punto di vista dell'opinione pubblica, sono, colpiscono meno, perché di chi si tratta? Si tratta sostanzialmente, non so, dei lavoratori irregolari dell'edilizia, delle badanti, delle domestiche, sono queste, mentre invece, no, i maschi giovani che arrivano sui barconi colpiscono molto di più. E facciamo invece fatica a capire che non esiste un'immigrazione irregolare, ma esiste una migrazione che in qualche modo le nostre politiche rendono più o meno irregolare. Cadere nell'irregolarità, sì. Dunque, è un processo. In questo senso la Bossi-Fini ha contribuito in che direzione? No, la Bossi-Fini, io dai dati che ho analizzato per questo libro posso dire che l'idea, appunto, che ci sia stata una destra repressiva e una sinistra invece lassista e buonista non corrisponde alla realtà, cioè non corrisponde almeno ai dati che riguardano il controllo degli ingressi e il controllo all'interno del territorio. Quindi la Bossi-Fini, perché questo a proposito dei miti, in fondo, o comunque di una diffusa percezione, la Bossi-Fini per molti è stata la causa della caduta in questa condizione di irregolarità. No, la Bossi-Fini ha introdotto, diciamo, e per certi versi era in continuità con la legge precedente, in alcuni casi introducendo piccoli dispettucci, mi verrebbe da dire, per esempio l'allungamento da 5 a 6 anni del periodo di permanenza regolare in Italia per avere la cosiddetta carta di soggiorno, cosa che adesso poi è superata dal permesso di soggiorno di lunga durata europeo, l'inserimento appunto delle difficoltà di mantenere il permesso di soggiorno in condizioni di disoccupazione. Questo è senz'altro vero. Però dal punto di vista dei controlli esterni e dei controlli interni non ha prodotto cambiamenti, non ha prodotto grandi sconvolgimenti. Di fatto l'aumento della capacità di controllo interno del nostro paese, cioè sostanzialmente l'aumento della capacità di espellere gli immigrati irregolari, è un cambiamento che è avvenuto con la legge Turco-Napolitano, con l'introduzione dei centri di permanenza temporanea, quelli che adesso si chiamano i CIE, e niente di tutto questo è stato riformato radicalmente dalla Bossi-Fini. Però un cambiamento che è parzialmente visibile e che crea potrebbe creare in futuro un problema è proprio questo, cioè il fatto che è possibile che la Bossi-Fini abbia aumentato i rischi di caduta nella irregolarità di stranieri che erano prima regolari. E questo un pochino dai dati che vengono presentati in questo libro lo si intravede. Prima era molto raro che uno straniero che si fosse regolarizzato cadesse nell'irregolarità. Adesso è meno infrequente, anche se rimane che la stragrande maggioranza degli immigrati irregolari che in Italia dall'inizio dell'immigrazione di massa è stata regolarizzata e non espulsa o peggio ancora tenuta nei centri di identificazione ed espulsione o in carcere, e questo è un elemento, diciamo, meno che non è passato nell'opinione pubblica, insomma, meno noto. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera, bentornati. Questa sera parliamo dunque di immigrazione. Ecco, in questi giorni proprio il ministro degli esteri Terzi è stato tra l'altro a svolgere una serie di visite nei paesi del sud del Mediterraneo, ha parlato con l'omologo egiziano e hanno parlato di immigrazione, hanno parlato di controllo, di flussi che naturalmente vengono da sud e non dal sud del Mediterraneo, ma dal sud del sud e quindi dall'Africa attraverso rotte che cambiano ma che negli anni passati hanno in realtà un po' sedimentato dei grandi percorsi. Per molti anni, in maniera anche molto contraddittoria e controversa, la Libia è stata, uso un'espressione molto semplice, un tappo a una serie di passaggi, o addirittura una valvola, perché poi nella politica di Gheddafi l'apertura o meno di quella valvola dell'immigrazione aveva un suo valore. Ora la situazione è cambiata. Un anno fa, la primavera araba, allora Asher Colombo, ripartirei da qui. In che modo il sud è cambiato e noi dobbiamo attrezzarci? Ma in realtà il sud è cambiato proprio nel senso che ha detto lei giustamente, cioè è cambiato perché i paesi e soprattutto la Libia, con i quali noi avevamo accordi bilaterali di riammissione, diciamo quasi draconiani, nel senso che la Libia era l'unico paese che riammetteva non solo i suoi cittadini, questo è il contenuto degli accordi di riammissione standard, che sono lo strumento principale con cui vengono garantiti i rimpatri, no? Ma aveva anche un accordo con l'Italia di riammissione di cittadini di paesi terzi, cioè sostanzialmente di cittadini non suoi, accordi che hanno ricevuto numerose critiche anche da parte di organizzazioni umanitarie, di organizzazioni internazionali, ONG, ma questo è un altro discorso. Ora, quello che è cambiato, che rischia di cambiare, è appunto la riduzione di questo ruolo di controllo, di esternalizzazione dei controlli, perché sostanzialmente questo è avvenuto, cioè l'Italia, come hanno fatto anche altri paesi, hanno esternalizzato, cioè demandato, diciamo così, ad altri paesi di partenza o paesi di transito questi controlli. Se questi controlli, questo ruolo, diciamo, dei paesi di transito e di partenza viene confermato, allora la capacità di controllo dei paesi di arrivo come l'Italia è buona, altrimenti no. E quindi, diciamo, questa è la strada che hanno poi sempre sostanzialmente seguito i governi, gli esecutivi, al di là delle retoriche che, come dicevo prima, sono, appunto, vanno considerate come tali, cioè se uno legge i disegni di legge, le interviste eccetera, vengono fatte affermazioni che poi non corrispondono alla realtà, perché in realtà chi ci governa sa benissimo che la strada per poter effettuare un'espulsione è quella di avere un accordo di riammissione con i paesi di partenza. Ecco, quindi, l'espulsione, a proposito, prima lei ci spiegava di come certe dinamiche anche di comunicazione veicolate attraverso i media e che noi veicoliamo, l'espulsione è sicuramente uno di quegli elementi che fa notizia, cioè essere capaci di espellere. Di solito la questione si associa naturalmente quando ci sono poi dei reati, raramente né la stampa né l'opinione pubblica è così cinica da interessarsene in casi di famiglie eccetera. Ecco, ma la capacità di espulsione dell'Italia qual è e in che modo sta cambiando, se sta cambiando? Ecco, questo è senz'altro uno dei risultati per me più sorprendenti di questa di questo lavoro, di questa ricerca che ho fatto per questo libro, perché quello che è emerso è che dopo un lungo periodo che è iniziato sostanzialmente, che era già iniziato con la legge Martelli, ma che poi si è consolidato con la Turco-Napolitano, di forte capacità di crescita delle espulsioni, e con questo intendo non tanto il numero delle persone, degli stranieri irregolari che venivano espulsi, ma il numero degli espulsi sul totale degli irregolari che venivano rintracciati e per i quali si cercava di appunto adottare questo provvedimento. Dopo un lungo periodo appunto di crescita, per cui nel 2002-2003 l'Italia riusciva a espellere la metà degli irregolari che la polizia, diciamo così, rintracciava sul territorio nazionale, da quel momento è cominciato un forte declino. Oggi noi riusciamo a espellere circa un quarto, quindi c'è stato un vero e proprio, io lo chiamerei un crollo, insomma, della capacità di controllo interno del nostro paese. E questo dipende da vari fattori. Uno è proprio quello di cui abbiamo parlato adesso, ed è a che fare con gli accordi internazionali. Con gli accordi internazionali. Due, forse anche a che fare, ma non è una causa di questo, ma diciamo si sono rivelate inutili le altre strade. L'introduzione del reato di immigrazione clandestina, io mostro che al di là del così, diciamo così, della adesione, apprezzamento ideologico o meno, su cui ciascuno di noi può avere le sue opinioni, naturalmente tutte legittime, però questo reato non è servito a raggiungere i risultati che il governo. Cioè non funziona, era. Lei dice, non ha aumentato la capacità di espellere immigrati irregolari, anzi mi ha colpito perché stranieri irregolari che sono stati denunciati per questo reato, la quota di espulsi è più bassa di quanto non fosse prima. Ecco, la quota è di 1 su 4, se ho capito bene. Circa 1 su 4. Ecco, è bassa, è davvero bassa, ed ha comunque un messaggio che della permeabilità del nostro paese. Il suo, come dire, non è un lavoro orientato in termini comparativi, ma chiedo all'esperto, questo 1 su 4 è un dato che ci pone in che modo nel panorama internazionale? Diciamo che rispetto al passato, e cioè rispetto appunto all'inizio degli anni 2000, quando noi eravamo vicini sostanzialmente agli altri paesi europei da questo punto di vista, cioè della capacità di espellere gli immigrati irregolari, non di non farli entrare, perché da questo punto di vista l'Italia invece funziona abbastanza bene, forse seconda solo alla Spagna, diciamo, ma dal punto di vista della capacità proprio di appunto espellere gli immigrati rintracciati irregolarmente sul territorio nazionale, questo è un calo che naturalmente ci fa tornare indietro, cioè ci fa tornare indietro agli anni, ai primi anni, alla metà degli anni 90 sostanzialmente. Da questo, ecco, che succede a chi resta? Che comunque è nella condizione di un clandestino, diciamo, identificato, quindi non è? Certo. Niente, succede che in alcuni casi entra in un centro di identificazione e di espulsione, ma anche questo è un risultato di questi dati che ho guardato per questa ricerca, che sono sostanzialmente, che erano inediti fino a poco tempo fa. In Italia la quota degli stranieri per il quale, cioè non so come dire, nell'opinione pubblica c'è l'idea che gli immigrati irregolari entrano nei CIE, ma invece quelli che entrano nei CIE sono pochissimi, non solo sono pochissimi sul totale, ma sono pochissimi anche sul totale di quelli che le forze di polizia, il Ministero degli Interni, per cui chiede l'ingresso in un centro di identificazione e di espulsione. I dati ci dicono che fatto 100 il numero di stranieri per cui viene richiesta l'ammissione in un centro, e perché devono essere identificati ed espulsi, fatto 100 questo numero ne entrano solo 25, ma quei 100 sono a loro volta una piccola parte del totale degli stranieri irregolari. Quindi, come dire, c'è un grande sfasamento tra quello che noi pensiamo e per certi versi quello che le norme del nostro paese ci dicono, no? E quello che poi in realtà succede nella pratica. E quindi tutto questo ha prodotto un declino della capacità di espulsione degli stranieri irregolari in una situazione che secondo me è diversa da quella in cui eravamo 10 anni fa, cioè in una situazione in cui c'è il rischio che si crei una quota di stranieri irregolari non regolarizzabili, per due ragioni. La prima è che le regolarizzazioni sono sempre più selettive. La regolarizzazione della Bossi-Fini, che è stata la più estesa, ha regolarizzato tutti gli stranieri regolari che potevano dimostrare di avere un lavoro. E adesso sono sempre più selettive. L'ultima è stata una regolarizzazione solo per le badanti, perché le badanti sì, e gli addetti alle pompe di benzina. Chiarissimo. No? E questo naturalmente è il rischio che Asher Colombo paventa nel suo lavoro, mi sembra chiaro, è quella di creare una sorta di sottocasta di persone costrette di fatto a vivere nell'ombra, senza possibilità di appunto emergere nella legalità e senza che dall'altra parte ci sia una capacità di espulsione per le ragioni che ci ha descritto. Io lo ringrazio di essere stato con noi, ricordo Fuori Controllo, miti realtà dell'immigrazione in Italia del professor Asher Colombo. Siamo in conclusione, ringrazio anche Valeria Bernardi. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo dalle 19:30. Buon fine settimana a tutti.